Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Arrestato in Egitto il Nobel per la pace, leader dell'opposizione El Baradei, scontri in piazza tra manifestanti e polizia. Giustizia, siamo quasi all'insolvenza di Stato, denuncia la Cassazione, il ministro Alfano, gran parte dei giudici a senso dell'equilibrio. Disoccupazione record in Spagna, nel 2010 senza lavoro più di una persona su cinque, il dato più alto dal 97. Nel 2010 48 città superano il limite per il PM10, in testa Torino e Frosinone. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura, dunque, andiamo all'estero. Le notizie che arrivano dall'Egitto, l'ultima molto grave, l'avete sentita poco fa. Ci colleghiamo dunque con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore al Cairo. Alberto. In una città blindata dai mezzi di sicurezza, dai reparti speciali, il regime di presidente Mubarak sta tentando in tutti i modi di arginare le conseguenze di questo venerdì della rabbia. L'ultima iniziativa è stata quella di arrestare Mohammed El Baradei, l'ex capo dell'Agenzia Atomica Internazionale, il premio Nobel, che era tornato ieri in patria per partecipare alle dimostrazioni di oggi e cercare di dare in qualche modo una spallata al regime di Mubarak, proponendosi come un'alternativa laica e secolarista al regime attuale. L'arresto di Baradei è chiaramente avrà chiaramente delle conseguenze anche politiche, e non soltanto dentro l'Egitto ma anche internazionali. La figura di Baradei è molto nota all'estero, è un uomo apprezzato negli ambienti internazionali e a questo punto probabilmente il regime di Mubarak ha preso una deriva difficilmente in qualche modo arginabile. La risposta soltanto repressiva probabilmente non basterà a tenerlo in sella. Bene, bene, grazie ad Alberto Negri per questi aggiornamenti. Ed è una giornata calda anche per l'Albania, il giorno della manifestazione dell'opposizione socialista guidata da Edi Rama. Ci colleghiamo con Tirana, con Andrea Milluzzi. Allora Andrea, qual è la situazione? Sì, buongiorno, siamo a pochi minuti dall'inizio della manifestazione di Edi Rama del suo partito in programma alle 14, una manifestazione annunciata come pacifica in memoria e in lutto per le tre vittime della manifestazione di venerdì scorso. Il boulevard che collega la sede del Partito Socialista al Palazzo del Governo in questo momento è chiuso al traffico. I manifestanti si stanno radunando in piazza Skanderberg, mentre sotto il palazzo del governo di Sali Berisha c'è uno schieramento ingente di forze dell'ordine, erano annunciate 2000 e 2000 sono. Davanti a loro c'è una gigantografia con appunto le facce delle tre vittime di venerdì scorso e i fiori che da una settimana stanno sotto la pioggia a ricordare quanto successo. Diciamo che la manifestazione è stata preparata a colpi di conferenze stampa e interviste. L'ultima questa mattina di Edi Rama intorno alle 11 dentro la sede del partito, con alcuni feriti di venerdì scorso che hanno ricordato la violenza delle forze dell'ordine in quell'occasione. La manifestazione, ripeto, sarà nelle intenzioni di Rama e dei suoi sostenitori pacifica, non si dovrebbe ripetere la situazione di venerdì scorso, il clima è comunque teso e stiamo aspettando appunto che parta la manifestazione alle 14. Grazie, grazie Andrea Milluzzi, torneremo a collegarci con te nel corso della giornata, ove naturalmente vi fossero aggiornamenti. E restando all'estero, l'ultima notizia che vi diamo, che sono almeno 8 le persone rimaste uccise in un attentato al supermercato Finest di Kabul, e fra essi vi sono almeno 2 stranieri. I talebani hanno rivendicato l'attentato affermando proprio che intendevano colpire gli stranieri. Siamo all'Italia, a Roma, con l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Il servizio. Si è da poco conclusa in Cassazione la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 alla presenza del capo dello Stato Giorgio Napolitano. Ad emergere la generale tendenza a una diminuzione dei dati di criminalità, soprattutto per quanto riguarda i delitti gravi. Calano ad esempio gli omicidi in Campania, che piazzano adesso l'Italia tra gli indici di criminalità al di sotto degli standard europei. Un dato però in contrasto con la crescente percezione di insicurezza avvertita dai cittadini, determinato soprattutto dai delitti delitti cosiddetti di strada e dai furti nelle case e nelle abitazioni. Come ha sottolineato il primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo nella sua relazione introduttiva, una inaugurazione in cui non sono mancate le polemiche, soprattutto per quanto riguarda gli attacchi alla magistratura e i rapporti tra questa e la politica, cui ha brevemente replicato il ministro Angelino Alfano. Sul tema dell'efficienza della giustizia, nessuno, virgolette, può chiamarsi fuori limitandosi ad additare le colpe altrui. Constato con amarezza che purtroppo spesso questa giusta considerazione è rimasta inascoltata per l'incapacità di fare squadra e le resistenze corporative che da più parti ostacolano i tentativi di riforma del sistema giudiziario italiano. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cerimonia in Cassazione nei giorni di duro scontro fra politica e magistratura, mentre sulla vicenda Ruby sta intervenendo in questi minuti nuovamente la CEI. Siamo di fronte ad un disastro antropologico, fermiamoci in tempo prima che degeneri ancora di più, è l'appello lanciato dal segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Mariano Crociata. Ma veniamo più propriamente agli aggiornamenti politici da questo lato e ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Elisabetta. Sì, proprio così, reagire al caso Ruby parlando dei problemi del paese. Sarebbe questa la ricetta del premier Silvio Berlusconi in Consiglio dei Ministri, dove lancia un monito a tutti: andate avanti con la voglia di fare, accentuare il lavoro, comunicare meglio le cose buone dell'attività di governo. Non è la prima volta che il premier cerca di spronare i ministri a pubblicizzare meglio l'attività di governo. In 10 giorni poi, Berlusconi assicura, allargheremo la maggioranza di governo andando avanti più forti di prima. Ma su questo fronte arriva lo scetticismo di Umberto Bossi, il leader della Lega chiede di vedere su che basi e per che cosa si può allargare la maggioranza. C'è poi anche il fronte politico, a margine del Consiglio dei Ministri, Berlusconi si sarebbe sfogato sull'ex alleato, ormai avversario politico, sì, proprio lui, su Gianfranco Fini. Il premier ribadisce che Fini non può essere il capo di una fazione e il presidente della Camera e per questo motivo si deve dimettere. Poi c'è un'intervista al Foglio, Berlusconi interviene sulla crisi, siamo perfettamente in grado di fronteggiare in sicurezza anche gli aspetti più scabrosi. E per il momento da Palazzo Chigi è tutto, a voi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, quindi da Palazzo Chigi e non da Montecitorio. Intanto è record di stagione per Anno Zero, il programma di Michele Santoro è stato seguito ieri sera da 7 milioni e 87 mila spettatori per uno share del 25,7%, ha fatto evidentemente bene all'audience anche la telefonata in diretta del direttore generale Mauro Masi. Dario Ceccarelli ne ha parlato con il critico televisivo di Repubblica Antonio Di Pollina. Ha fatto benissimo, ha predisposto tutto il pubblico a mettersi in attesa magari di altre telefonate ancora più autorevoli nel corso della trasmissione, che poi non sono arrivate, ma è assolutamente certo che è un tema così caldo e pieno di tutti gli sviluppi possibili in diretta, palpitanti, alla Santoro poi per di più come modo di condurre la trasmissione, e Santoro ha raggiunto e superato certi record che erano stati raggiunti l'anno scorso, per esempio, guarda caso, nella puntata con Patrizia da Dario. Come dire, il tema è, adesso non vorrei fare battutacce, ma il tema è sempre molto importante. È insolita una telefonata di questo genere dove si dice io non sono d'accordo con te ma fai pure, cioè è fuori dall'ordinario. Guarda, siamo a dei livelli che incommentabili quasi, tanta era la difficoltà evidente, palpabile del direttore generale, che poi è finito immediatamente nelle grinfie di un Santoro che ha reagito costringendolo a dire qualcosa o a fare qualcosa di coerente con quello che era il tono della telefonata. Lì Masi è crollato senza sapere come andare avanti, tanto la sua testimonianza, diciamo così, l'aveva prodotta e dal suo punto di vista, come dire, il suo dovere, e mettiamoci tutte le virgolette che vogliamo, in un caso simile l'aveva fatto, ma quello che ne usciva stravincitore era Santoro, che poi si è fatto la puntata per fatti suoi e stamattina con gli ascolti, altro che vincitore, direi trionfatore. E adesso cambiamo argomento, usciamo dalla politica per andare ai cortei della FIOM che si stanno svolgendo in molte città d'Italia. Un aggiornamento da Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Tute blu della CGIL dunque in piazza in tante città per dire no agli accordi sugli stabilimenti Fiat di Pomigliano e di Mirafiori. A difesa del contratto nazionale si sono svolte, in alcuni casi si stanno ancora svolgendo, oltre 20 manifestazioni, 18 regionali e 4 provinciali. Ai cortei di Torino, Pomigliano e Cassino si sono aggiunti sindacati di base. Una parte di questi ultimi ha manifestato anche ad Arcore, davanti alla residenza del Premier. Dalle piazze, come avvenuto ieri a Bologna, intanto i lavoratori sono tornati anche a chiedere alla CGIL la proclamazione dello sciopero generale di tutte le categorie. Ma veniamo all'intervento del numero uno della Fiom Landini, che ha parlato in corteo a Milano, dove tra l'altro ci sono stati forti disagi al traffico. Federmeccanica e Confindustria devono sapere, ha detto Landini, che se fanno quello che fa la Fiat ci sarà un conflitto che non ha precedenti nel nostro paese. Noi, ha detto ancora il segretario, vogliamo fare accordi, per questo offriamo un terreno di confronto. Pronta la replica degli industriali. In democrazia, ha detto Bombassei, vicepresidente di Confindustria, la maggioranza vince e gli altri si devono adeguare, non trovo in linea con questo principio lo sciopero di oggi. Infine i numeri della protesta: l'adesione è stata in media del 25% secondo la Fiat, dal 60 al 75% replica la Fiom. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. A proposito del gruppo Fiat, oggi è stata presentata la nuova Ferrari, il servizio dell'inviato. È la 57esima monoposto del Cavallino, ma si chiamerà F150 come gli anni che festeggia nel 2011 l'Italia. La nostra bandiera è disegnata sui profili aerodinamici laterali e tutto il retro dell'alettone posteriore è dedicato al tricolore. Il presidente Montezemolo. Il mondo dello sport vive per vedere la bandiera italiana alzarsi su alto pennone dopo una gara, alle Olimpiadi, ai Mondiali, a qualunque gara sportiva, di sentire di aver fatto qualcosa per il proprio paese. Dal mondo dello sport, di cui la Ferrari è una importante rappresentante, viene un messaggio di orgoglio, di appartenenza in un anno importante come quello dell'unità, e quindi anche di consapevolezza di contribuire a vedere sempre di più in alto quella bandiera. L'auto che si è vista oggi sarà diversa da quella che vedremo in pista il 13 marzo in Bahrain, la prima gara del Mondiale di Formula 1. La Ferrari comincerà a girare nel pomeriggio a Maranello, ma i veri test ci saranno in Spagna la prossima settimana. Gli occhi naturalmente sono puntati su Fernando Alonso, che ci dice qualche cosa in più sull'auto. Vediamo adesso come vanno le prove, a Valencia quando cominciamo, vediamo. Mi aspetto una macchina sicuramente non facilissima da guidare, perché abbiamo più impegni in questo momento da quello che avevamo in passato, con più pulsanti. Abbiamo il KERS, l'alettone dietro, poi diversi comandi sullo sterzo, quindi come sensazione, fino a che non proviamo non sapremo, ma carico a gennaio penso che sono stato sempre. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Maranello. Le 13:16 minuti e 36 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato delle proteste in Egitto, che tra l'altro stanno proseguendo in questi minuti contro il presidente Mubarak. Abbiamo parlato di giustizia con l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione e la Cassazione stessa che dice che siamo quasi all'insolvenza di Stato, e poi abbiamo parlato di politica con le vicende che riguardano il caso Ruby, e infine della Ferrari che oggi ha presentato il nuovo modello da Formula 1. Adesso ci occupiamo di economia. Più precisamente di economia spagnola. Economia spagnola che oggi ha registrato un record decisamente negativo, seppure forse nelle attese. Ci colleghiamo con Madrid e con Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore. Michele, qual è questo record? Buongiorno. Buongiorno, il record è quello purtroppo della disoccupazione, nel senso che a fine 2010 è schizzato al 20,33% il tasso, con ben 4,7 milioni di disoccupati. Insomma, l'economia non tira, l'economia non cresce e quindi non produce, non crea nuovi posti di lavoro. Una piaga per il governo Zapatero, che è sempre più in crisi e che sta cercando di trovare degli accordi con i sindacati proprio per facilitare il mercato del lavoro, agilizzarlo e via di seguito. Nel frattempo il governo oggi ha approvato la riforma delle pensioni, portando l'età pensionabile da 65 a 67 anni. Grazie dunque a Michele Calcaterra per questi aggiornamenti. Ci colleghiamo invece con le Alpi Svizzere, dove stanno proseguendo i lavori del Forum Economico di Davos, e si è parlato anche qua di Europa questa mattina, tra l'altro ospiti dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Sì, l'Europa forse sembra essere il tema dominante non solo di oggi, come era stato di ieri, ma dell'intero World Economic Forum, anche se i toni oggi sono più pacati di quelli di ieri, cioè ha parlato il primo ministro Cameron, il primo ministro inglese Cameron, e non ha voluto rispondere a quello che diceva ieri Sarkozy, e si aspetta stasera che parli Angela Merkel, il cancelliere tedesco, che sicuramente sarà sulle posizioni di Sarkozy, ma usando toni più sfumati e più pragmatici di quanto non fossero quelli di Sarkozy. Ha parlato anche il segretario al tesoro americano, Geithner, mostrando, come dire, se può dire con molta sincerità, un piattume sconfortante, nel senso che sembra quasi avere poche idee. Ha detto le due o tre formulette su come appunto uscire dalla crisi. Ovviamente sappiamo che l'amministrazione Obama è diventata un'amministrazione di centro, a limiti del centrodestra, e non ha molto altro da dire. E si attende quindi soprattutto, come dire, il clou della serata è dedicato appunto ad Angela Merkel, anche se ci sarà comunque un siparietto italiano, perché oggi ci sarà un incontro dedicato al caso italiano sotto tutti i punti di vista, dove ci sarà anche il presidente di Confindustria, Anna Marcegaglia. Grazie dunque ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore a Davos, per questo aggiornamento. Noi veniamo all'Italia, che sono sempre di più le famiglie che non riescono ad arrivare alla quarta settimana, lo dice il rapporto Italia 2011. Alessandra Schepisi. Si fatica ad arrivare a fine mese a pagare mutui e fitti, figuriamoci a mettere da parte qualcosa. Succede ad un italiano su due e il pessimismo è ancora più diffuso. 81,6% degli italiani vede nero e considera la situazione economica peggiorata. Di questi, oltre il 50% addirittura nettamente peggiorata. Altro capitolo critico nel rapporto Eurispes 2011 è il rapporto con le istituzioni. Gli italiani si fidano molto del capo dello Stato, abbastanza della magistratura, molto meno del governo, del Parlamento e dei partiti. Record di sfiducia verso l'esecutivo che arriva all'84%, 90% tra i giovani, e 4 italiani su 10 se ne andrebbero all'estero. Quanto alle riforme, appena il 26,9% degli italiani si dichiara favorevole al federalismo, con una percentuale di favorevoli che in 6 anni è scesa del 9%. È un rapporto davvero a tutto tondo quello dell'Eurispes, che contiene anche qualche curiosità, ad esempio quelle sul maschio italiano, più incline ai lavori domestici e più attento al fisico. Sparecchia la tavola dunque e non disdegna la crema antirughe. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo in Italia, ma per tutt'altro argomento, l'inchiesta sui rifiuti che ha portato questa mattina a Napoli ad importanti arresti. Il percolato, ovvero il rifiuto liquido prodotto dalle discariche di rifiuti solidi urbani, veniva immesso senza alcun trattamento nei depuratori dei quali finiva direttamente in mare, contribuendo a inquinare un lunghissimo tratto di costa della Campania, dal Salernitano fino al Casertano. Il tutto avveniva indisturbatamente per un accordo illecito tra pubblici funzionari e gestori di impianti di depurazione campani. Queste le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Napoli alle 14 persone arrestate oggi nel corso di un blitz e le altre 38 indagate per gli stessi reati ambientali. Tra i funzionari finiti in manette, Marta Di Gennaro, ex vice di Guido Bertolaso alla Protezione Civile, il prefetto Corrado Catenacci, ex commissario rifiuti della Regione Campania, Gianfranco Mascazzini, ex direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Tutti e tre con il beneficio degli arresti domiciliari. Indagati invece l'ex governatore della Campania Antonio Bassolino, l'ex assessore regionale Luigi Nocera e l'ex capo della segreteria politica di Bassolino, Gianfranco Nappi. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Vi ricordate l'inchiesta sulla cosiddetta P3? È stato uno degli argomenti di primo piano nei mesi scorsi, dopo gli arresti disposti dalla Procura di Roma, che accusa un gruppo di persone di aver messo in piedi un'associazione segreta per condizionare importanti decisioni. Dopo 6 mesi di detenzione, gli indagati hanno appena lasciato il carcere. Tra loro Flavio Carboni, uno dei personaggi chiave, che così replica le accuse in questa intervista a Raffaella Calandra. La legge Anselmi non sapevo neanche che esisteva, l'ho scoperto adesso, e riguarda Geni, cioè riguarda una loggia. Io tra l'altro non sono P2, ma ogni tanto i giornalisti, anzi molto spesso, mi danno come P2ista. Io non ho di queste associazioni, io conosco parecchie persone, grazie a Dio, e se ne conoscessi di più sarei ancora più contento. Che cosa dovrei nascondere? Che cosa stiamo facendo? Non esiste da noi la massoneria, non ho capito perché, davvero, se io volessi dire sì, ho fatto un'associazione segreta, presuppone la presenza di varie persone, no? Con i quali appunto preparare chissà cosa. Qual era il fine? Che cospiratori siamo? Per fare cosa? L'antitrust dice no agli aumenti delle tariffe dei taxi a Roma, introdotte in seguito all'incremento delle licenze nella capitale. Per il garante, l'aumento del numero dei tassisti non avrebbe dovuto suggerire una crescita delle tariffe, ma una loro riduzione in seguito ad una normale logica di mercato. Il sindaco Alemanno dice: valuteremo le critiche, ma non faremo nessuna marcia indietro. Sentiamo cosa ne pensano i tassisti romani. L'aumento dei taxi non è che c'è tutti gli anni, i costi di gestione sono aumentati enormemente, dalla benzina alle assicurazioni alla macchina a tutto il resto, poi pure il costo della vita, insomma ormai diciamo il guadagno di un tassista è ridotto al minimo. Un aumento è giusto, sicuramente l'aumento delle licenze ha portato a notevole riduzione del guadagno, oltre a una riduzione della richiesta c'è stato un aumento del costo di gestione, quindi diciamo un aumento di tariffa ci deve essere. Dobbiamo rimanere col vecchio impianto tassametrico e... L'aumento che ci aspettava di diritto, insomma, in base ai dati Istat, eccetera, eccetera, era del 5, 6, 7, 8%, non lo so. Prendiamo quello. Avremmo dovuto rivedere la tariffa fissa in qualche modo, perché è rimasta ferma a 40 euro dal 2006, quindi... E restiamo nelle città, però prevalentemente in quelle della pianura padana. 30 dei 48 capoluoghi fuori legge per quanto riguarda il PM10 si trovano proprio là, emerge dal rapporto Malaria di città 2011, malaria con l'apostrofo, malaria, che è presentato da Legambiente. Ci colleghiamo con Andrea Poggio di Legambiente, appunto, che ci dà qualche dettaglio in più su questo rapporto, tra l'altro alla vigilia di una domenica a piedi, un weekend che vedrà una domenica a piedi a Torino, a Milano e anche a Napoli. Allora Poggio, che cosa emerge da questo rapporto? Buongiorno a tutti, io in questo momento sono qui a Milano in una delle giornate più inquinate dell'anno ed è la 16ª giornata consecutiva di superamento del limite massimo di inquinamento. Se andiamo avanti di questo passo, a febbraio avremo respirato tutta la dose di inquinamento che potremmo respirare in un anno, quindi per il resto dell'anno dovremmo tapparci il naso. Questa è la situazione nella gran parte delle città italiane, in particolare delle città della pianura padana. Perché? Beh, non solo perché siamo un po' sfortunati dal punto di vista meteorologico, perché qui si concentra l'inquinamento, ma anche perché siamo in tanti e abbiamo una fracassata di macchine, soprattutto di camion, che inquinano anche decine di volte di più delle macchine, e abbiamo i riscaldamenti a manetta con uno spreco sia nei palazzi pubblici che nei negozi che nel riscaldamento generale delle case impressionante. Poggio, in 20 secondi, se servono le domeniche a piedi e che cosa suggerite? Servono se sono delle belle giornate in cui ci si diverte, quindi si fa bene alla nostra morale. Dal punto di vista della difesa della salute pubblica, diciamo la verità, delle buone politiche del traffico con meno auto, noi diciamo per esempio a Milano 300.000 macchine di meno, 300.000 alberi e 300.000 bambini in più a giocare per le nostre città fanno la differenza. Questa è la vera ricetta che si vede in tutte le città dell'estero. Riduzione del traffico tout court, non più soltanto di alcuni veicoli inquinanti. Grazie ad Andrea Poggio di Legambiente anche per questa sua opinione. Chiudiamo andando a Bologna con Deborah Diriani per parlare della mostra Mercato Arte Fiera. 200 galleristi da tutto il mondo per quello che è ormai diventato l'appuntamento immancabile per gli appassionati di arte contemporanea. Da oggi a lunedì a Bologna torna Arte Fiera e ancora una volta non delude le aspettative dei suoi estimatori, come racconta Silvia Evangelisti, direttore artistico della manifestazione. Arte Fiera 2011 è molto bella nei padiglioni, si vedono tantissime cose veramente interessanti, opere importanti ma abbordabili come prezzo, quindi insomma una bella visita alla fiera, la consiglio a tutti, e poi un giro in città. E girando per la città, ecco cosa si può trovare. Due installazioni di Anthony Gormley al Museo della Musica e al cortile dell'Archiginnasio sono abbastanza speciali, così come non so, tutta una parete di fotografie, di lavori di Bettina Rems, da Jérôme de Normand, e poi ci sono i giovani artisti. E tutta quella sezione è divertente, è fresca, è vivace ed è veramente un richiamo all'ottimismo. È un investimento nel futuro. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta da Simone Spezia, curata da Maria Piera Ceci con in regia Filippo Aureggi. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.